Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto mondo. It's fake news. It's totally fake news. Made up, fake. We went through the same stories. You could have asked me the same questions 4 years ago. I had to litigate this and talk about it. Buongiorno Giulia. Buongiorno. E queste sono le parole di Trump proposito proprio di quello che... Sì, perché ieri in conferenza stampa gli hanno subito fatto una domanda su queste rivelazioni del New York Times, che oggi sono l'apertura praticamente di tutti i giornali. E lui, con un tono che mi ha un po' sorpresa, tanto era dimesso, fake news, ho dovuto ascoltare le stesse accuse nel 2016. Sicuramente però questo, e lo spiegano tutti i giornali, sarà un tema del tanto atteso dibattito che ci sarà domani, 9 Eastern Time, quindi le 3 di notte qui da noi, nella notte tra martedì e mercoledì. 90 minuti senza pubblicità. Il giornalista, il moderatore sarà Chris Wallace, un giornalista di Fox News, che è una televisione, diciamo, vicina a Trump, ma Chris Wallace è quel giornalista che alla Casa Bianca lo aveva messo abbastanza in imbarazzo su alcune cose, quindi sicuramente un giornalista che ha una sua integrità, anche se lavora per un network, diciamo, pro Trump, quindi c'è molta attesa su questo. E allora, ci fai sentire qualche altro? Sì, c'è un'altra piccola parte del punto di questa risposta di Trump, sentiamolo. The IRS does not treat me well, they treat me like the Tea Party, like they treated the Tea Party. They don't treat me well, they treat me very badly. You have people that in the IRS, they treat me very, very badly. Che dice? Avete sentito 3 volte la stessa cosa. The IRS treats me badly. The IRS sta per Internal Revenue Service, che è l'equivalente della nostra agenzia delle entrate. Insomma, è come l'unica sua risposta è stata questa: non mi trattano bene, non mi trattano bene, non mi trattano bene, non mi hanno mai trattato bene. L'avete sentito voi stessi. Questa era la risposta a un'inchiesta del New York Times che non è... Quanto è solida questa inchiesta, secondo te? È molto solida, perché si basa su alcuni documenti, e Trump sa benissimo che nel frattempo, nella conferenza stampa l'ho anche detto, lui sa che c'è questo audit, c'è questa analisi in corso, chiesta ufficialmente, alla quale lui si era opposto, e si stanno esaminando tutte queste dichiarazioni dei redditi. Nel frattempo, un po' come Repubblica riesce a avere i documenti interni dell'INPS, qualcuno è riuscito ad avere questi documenti interni, qualcuno del New York Times, e li ha pubblicati. Non è naturalmente evasione fiscale, a parte che negli Stati Uniti nessuno si sognerebbe mai di chiamare un evasore fiscale furbetto. L'evasione fiscale è un crimine, cioè spesso si viene anche condannati a pene detentive se l'evasione è dimostrata. È una sorta di elusione, perché Trump ha questa catena, il New York Times lo spiega molto bene, di società, proprio una vera catena di scatole cinesi, e se queste società chiudono in perdita, come avviene in ogni paese, non devono pagare le tasse. Solo che naturalmente Trump deve spiegare, soprattutto a fronte della sua immagine di uomo imprenditore di successo, come mai tutte queste aziende fossero in perdita, queste società fossero in perdita. E se invece i fondi non siano stati trasferiti altrove, nascondendoli, esatto, chiaramente poi al fisco. Non so se abbiamo altro sull'America, visto che siamo a poche ore dal sì, dibattito. Sì, tra l'altro ricordo che quello del 2016, sì, il primo dibattito tra Hillary Clinton e Donald Trump fu seguito da 84 milioni di persone. Non male. E sì, per questo dibattito se ne attendono circa 100 milioni. Tra l'altro viene un po' paragonato a uno scontro mitico, uno dei 3 scontri mitici tra Muhammad Ali e Joe Frazier, quello del 74 al Madison Square Garden. Cioè ci si aspetta che, anche se c'è in mezzo un bravo arbitro, questo Chris Wallace, insomma, potrebbe essere molto interessante da guardare. E però tra l'altro il grande, sì, tema, ed è l'apertura di Financial Times di oggi che mi ha anche un po' stupito, è che la questione della Corte Suprema, al di là del ruolo che potrebbe avere nel decidere un'elezione incerta, la prima cosa di cui si occuperà è l'Obamacare, e su questo si è espresso Cory Booker, che è un senatore del Partito Democratico del New Jersey, quindi parteciperà alle audizioni di questa giudice nominata da Trump, che il Senato deve ratificare, e è naturalmente molto, molto preoccupato per questa prima grana che si dovrà risolvere, cioè l'Obamacare. Se abbiamo tempo, sono 10 secondi. Sentiamo. And unfortunately, Americans are about to see a Supreme Court that's going to turn against a law that has provided really basic protections that the majority of Americans really want. Allora, per correttezza diciamo che Trump ha già anticipato che al posto dell'Obamacare, che è un tentativo di fornire assistenza sanitaria a tutti, ha già pronto un altro piano, del quale però non si conoscono i dettagli, magari li darà domani. Quello che dice Cory Booker è: se viene cancellata l'Obamacare, e questa nuova giudice è contraria a questo Obamacare, gli americani si accorgeranno di che cosa significa non avere una protezione sanitaria in un periodo di pandemia. E ricordiamo 205.000 morti negli Stati Uniti, tra l'altro 5.000 circa solo in Ohio, dove si terrà il dibattito domani, e perciò insomma naturalmente il tema del Covid sarà uno dei sei temi affrontati domani. Qualche titolo dei giornali europei, giusto? Abbiamo pochi secondi oggi, per colpa mia siamo in ritardo, però no, segnalo solo per dare un'idea. Sì, i giornali tedeschi, che sono praticamente gli unici a occuparsi con grande profondità e dalle prime pagine anche all'interno di questo scontro pericolosissimo tra Armenia e Turchia per il Nagorno-Karabakh, che naturalmente è un vecchio conflitto che purtroppo si sta ripresentando, e pare molto difficile trovare una soluzione diplomatica, anche perché l'Unione Europea è in altre faccende affaccendata. Grazie Giulia. Per le aziende professionisti, il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.